Oggi il decreto fiscale è in Consiglio dei Ministri. Vendite al dettaglio nel 2011 meno 1,3%, il dato peggiore dal 2009. Marchionne, export negli Stati Uniti o dovremmo chiudere due siti? Una buona giornata da Valentina Furlanetto e dalla redazione. In primo piano i primi 100 giorni del governo Monti. È online il rapporto sulla sua attività, in diretta Andrea Viale. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno. È da questa mattina sul sito internet di Palazzo Chigi il bilancio dei primi 100 giorni dell'esecutivo guidato da Mario Monti, il cui obiettivo dichiarato è quello di trasformare l'Italia da paese in emergenza a modello per uscire dalla crisi dell'Eurozona. Tutte le componenti della società devono partecipare allo sforzo per la salvezza e il rilancio del paese, si legge nel dossier, che fra gli interventi realizzati elenca le misure sul rigore del pacchetto Salva Italia di novembre e quelle varate a gennaio per il rilancio della crescita. Nel documento si ribadisce anche l'importanza delle liberalizzazioni e della lotta all'evasione fiscale, si sottolinea poi lo sblocco di 20 miliardi per le infrastrutture, il taglio del 92% delle spese per i voli di Stato e i 43 milioni di euro risparmiati dalla Presidenza del Consiglio. Del rigore necessario per tornare a crescere, Monti ha parlato anche stamattina al termine di un incontro con il primo ministro irlandese Kenny. Sentiamo le sue parole, poi la linea può tornare allo studio. L'economia irlandese è una buona dimostrazione di quello che anche in Italia noi diciamo spesso ai cittadini, e cioè che le misure di consolidamento di bilancio, le misure di rigore e le riforme strutturali possono essere difficili da affrontare e da sopportare nel brevissimo periodo, ma poi generano effettivamente la ripresa della crescita economica. Grazie Andrea Viale per questa diretta. Le liberalizzazioni e la riforma del mercato del lavoro restano i temi ancora aperti nell'azione di governo. PD e PDL, i principali partiti di maggioranza, rimangono divisi. Una trattativa difficile, uno scoglio insidioso per il governo, anche se Monti non intende fare passi indietro. Lo dice apertamente e lo scrive anche. La competitività del sistema paese aumenta soprattutto grazie alla concorrenza. Questo si legge nella relazione dell'esecutivo sui primi 100 giorni. Il governo ha varato una serie di misure per aprire il mercato con l'obiettivo di abbattere i privilegi e garantire maggior crescita. Di problemi però ce ne sono e lo dimostra anche il fatto che le riunioni in commissione sono saltate più volte. Taxi, farmacie, professioni, servizi pubblici locali e tribunale delle imprese, capitoli ingarbugliati che cullano forti interessi. Sulle licenze dei taxi saranno comuni e regioni a fissare il numero, l'autorità dei trasporti darà un parere obbligatorio ma non vincolante. Nuove farmacie si potranno aprire ogni 3.300 abitanti e per la vendita dei farmaci di fascia C non c'è ancora una linea certa. In merito alle polizze auto, stessa tariffa su tutto il territorio nazionale per gli automobilisti virtuosi, sconti in caso di installazione della scatola nera. In banca poi, quando un cliente sottoscriverà un mutuo, non sarà più obbligatorio aprire un conto corrente. Inoltre la banca dovrà proporre almeno due assicurazioni di due compagnie diverse. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ognuno ha le sue grane. A 100 giorni dall'inizio dell'esperienza del governo Monti, i due partiti principali stanno sperimentando il peso di un esecutivo che appoggiano ma che non hanno espresso e devono confrontarsi con scelte che condividono solo in parte. Per il Partito Democratico non è un mistero, il problema si chiama riforma del mercato del lavoro. Non tanto e non solo per le parole del ministro Fornero, che aveva fatto intendere ieri l'altro che il governo avrebbe potuto procedere anche senza il consenso dei partiti, ma soprattutto per una divisione interna, il cui simbolo più evidente è il responsabile economico. Stefano Fassina vuole aderire allo sciopero indetto dalla FIOM per il 9 marzo, sciopero che non è solo contro gli accordi Fiat, ma anche contro la possibile modifica dell'articolo 18. Se la segreteria del partito non gli darà il via libera, non andrà, ma lo strappo con l'ala più riformista del partito è innegabile. Marco Follini, che ne fa parte, è arrivato ad auspicare addirittura che il PD conceda una sorta di libertà di coscienza. Le difficoltà del PDL sono meno evidenti, ma non vuol dire che non ci siano. Un fronte è sicuramente quello delle liberalizzazioni, visto che l'attenzione del partito verso le categorie interessate è sempre stata piuttosto forte, ma pesa di più probabilmente il fatto che il PDL è in completa ristrutturazione. Berlusconi nel ruolo di padre nobile, Alfano segretario ma con le primarie per la scelta del candidato premier già decise e consensi in netto calo, tre elementi che non esauriscono il quadro ma contribuiscono a darne un'idea. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E continuano le proteste delle categorie contro le novità contenute nel pacchetto liberalizzazioni. 7 giorni di sciopero dal 15 al 23 di marzo sono stati annunciati dagli avvocati. Anna Marino ha raggiunto il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Guido Alpa. Vogliamo che il governo dia all'avvocatura una riforma che aggiorni la professione qualificandola ma senza mortificarla. Noi non pretendiamo maggiori compensi. Noi vogliamo soltanto compensi congrui, non vogliamo però compensi umilianti, e i compensi umilianti sono quelli che le cosiddette liberalizzazioni consentono di imporre agli avvocati da parte non dei singoli cittadini, ma da parte delle imprese, delle assicurazioni, delle banche. Tra gli interventi previsti dal decreto sulle liberalizzazioni vi è anche lo scorporo dall'ENI di Snam Rete Gas. Tale scenario, spiega l'amministratore delegato di Snam, Carlo Malacarne, intervistato da Sebastiano Barisoni, non cambierà assolutamente quelle che sono le nostre strategie. Questo decreto stabilirà una discesa di ENI, devo dire che la discesa di ENI 20%, 5% non cambia assolutamente quelle che sono le nostre strategie, per cui sarà definita dal decreto. La cosa che posso poi anche commentare è che sicuramente nella nostra strategia di espansione europea, strategia che l'azionista di maggioranza conosce benissimo, è chiaro che una discesa di ENI può comunque dare un impulso, favorire eventuali joint venture, eventuali sviluppi comuni con società europee. Però oggi che l'indipendenza della nostra società, che opera solo in Italia, è certa. Intanto oggi è una giornata importante perché il Consiglio dei Ministri discute e vara il decreto fiscale. In diretta Alessandra Schepesi, buongiorno Alessandra. Sì, buongiorno. Semplificazioni fiscali e stretta all'evasione, con l'obiettivo di destinare risorse al futuro taglio delle tasse. Il decreto con le semplificazioni fiscali approda oggi in Consiglio dei Ministri. La riunione è fissata per le 15, mentre per il disegno di legge delega che fisserà i paletti della riforma fiscale bisognerà aspettare qualche altra settimana. La riduzione della pressione fiscale non sarà però nell'immediato, si dovrà attendere almeno fino al 2013, anche se già nel Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe essere istituito un fondo in cui far confluire proventi della lotta all'evasione 2012-2013 da distribuire in seguito alle famiglie a più basso reddito. Ma come si è detto, con il decreto arriveranno non solo semplificazione e riduzione di adempimenti tributari, bensì anche nuove norme anti-evasione, dalle liste selettive per i furbetti dello scontrino alla stretta sui falsi studi di settore, dall'utilizzo delle indagini finanziarie da parte delle fiamme gialle alla cessazione d'ufficio per le partite IVA inattive, dalla stretta sulle compensazioni IVA a un potenziamento dei controlli sulle finte onlus, e ancora multe salate per chi porta capitali all'estero illegalmente, con un meccanismo che incrementa la sanzione fino al 40%, ed è attesa anche la norma per l'ICI sulle attività commerciali della Chiesa. Positivo il giudizio del direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Beffra. Il provvedimento di oggi, dice, sarà un buon passo in avanti per la riduzione degli adempimenti. E da Roma è tutta quella linea. Grazie ad Alessandra Schepesi. Oltre al peso delle tasse, gli imprenditori devono sopportare anche le tortuosità burocratiche per pagarle. E invece di semplificarsi, il mostro della burocrazia fiscale si complica. Dal 2008 ad oggi, calcola Confartigianato, sono state emanate 189 norme che hanno complicato la gestione fiscale delle aziende, una ogni 7 giorni. Soltanto 33 invece le nuove leggi che l'hanno semplificata, e 75 quelle a impatto zero. Le imprese sacrificano 36 giorni l'anno alla burocrazia fiscale, con un aumento del 53% rispetto alla media OCSE. E ora il paese sommerso. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Voli low cost, ma a costo elevato per le casse dello Stato italiano. Ryanair, infatti, famosa per i voli a basso costo, ha un conto in sospeso con l'erario, perché secondo la Guardia di Finanza non ha dichiarato al fisco incassi per 350 milioni di euro. Per questo la compagnia è stata oggetto di una verifica fiscale da parte del nucleo tributario della Guardia di Finanza di Roma. Secondo l'accusa, Ryanair ha una stabile organizzazione in Italia, dove però non paga le tasse, e non paga le tasse neppure sui voli interni. La compagnia si giustifica dicendo che ad esempio il volo Milano-Alghero è in realtà un Milano-Stansted che fa solo tappa ad Alghero. Da qui nasce il contenzioso, un braccio di ferro che dura da 2 anni e che potrebbe chiudersi a breve. mentre rimane in piedi un'altra accusa. La direzione provinciale del lavoro di Bergamo contesta alla compagnia di Oliri di aver evaso contributi per 12 milioni di euro, in quanto ha assunto a Dublino anziché in Italia i suoi 650 dipendenti. A Dublino la tassazione per stipendi fino a 32.000 euro è inferiore al 10%, da noi sfiora il 70%. I 650 dipendenti lombardi di Ryanair però usufruiscono del sistema sanitario nazionale italiano. Crollo dei consumi anche a dicembre e a Natale, che non è riuscito a risollevare le vendite al dettaglio. A dicembre le vendite hanno segnato una diminuzione su novembre dell'1,1%, il ribasso più forte da luglio 2004. Su base annua il calo è stato del 3,7%, il peggiore da marzo 2009. Le vendite al dettaglio nel 2011 calano dell'1,3% rispetto al 2010, quando si erano mantenuti pur di poco sopra lo zero. Lo rileva l'Istat spiegando che le vendite degli alimentari restano ferme e il non alimentare scende dell'1,8%. Nel complesso si tratta del dato peggiore dal 2009. L'indebolimento dell'euro verso il dollaro aiuta, non chiederò più rottamazioni, ma servono costi competitivi e l'utilizzo pieno e flessibile degli impianti. L'amministratore delegato di Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, in un'intervista al Corriere della Sera, ha sottolineato che gli stabilimenti italiani hanno tutto per cogliere l'opportunità di esportare negli Stati Uniti, ma se non accadesse dovremmo ritirarci da 2 siti dei 5 in attività. E ora con Deborah Rosciani sentiamo gli aggiornamenti dei mercati finanziari. Ancora buongiorno Deborah. Buongiorno a voi. Euro su dollaro, partiamo dal rapporto di cambio evocato anche da Marchionne. Questa mattina viaggia oltre 1,34, un livello che non si vedeva dagli inizi di dicembre. Le borse sono positive, più 0,8% Francoforte, più 0,5% Parigi, più 0,14% Londra, Milano più 0,85%. Milano per la verità stamattina guadagnava un po' di più, poi ha rallentato il passo, ma in ogni caso il mercato recupera dopo i cali degli ultimi giorni, soprattutto quelli di ieri, determinati dal rapporto della Commissione europea per il 2012 che ha previsto uno scenario recessivo in tutta l'eurozona. A Milano corrono i titoli Telecom, più 6% dopo i dati diffusi stamattina, che comunque hanno confermato una revisione al ribasso della politica dei dividendi, ma stanno correndo anche le banche, che sono incoraggiate da un report positivo di una grande casa di analisi, appunto Nomura, che ha rivisto a rialzo i target di prezzo di diversi istituti di credito. Intesa San Paolo guadagna 2,5 punti, Mediobanca più 1,98, Popolare di Milano più 1,70. Lo spread è intorno a 360 punti base. Un'ultima notizia, il Tesoro stamattina ha collocato 3 miliardi di CTZ a zero coupon con un rendimento in calo al 3,013% dal 3,76 dell'asta del 26 gennaio, e ha collocato con successo anche 1,5 miliardi di BTP indicizzati all'inflazione dell'area euro. È tutto. I primi 100 giorni del governo Monti è online, il rapporto sulla sua attività. Oggi il decreto fiscale in Consiglio dei Ministri. Vendite al dettaglio nel 2011 meno 1,3%, il dato peggiore dal 2009. Marchionne, export negli Stati Uniti o dovremo chiudere 2 siti? E riprendiamo questa seconda parte del nostro GR parlando del processo Mills a Milano. Il processo Mills per corruzione in atti giudiziari. Domani dovrebbe esserci la sentenza per l'ex premier Silvio Berlusconi, imputato per corruzione in atti giudiziari. L'ultimo nodo prima della sentenza Mills è direttamente nelle mani di Silvio Berlusconi. L'ex premier renderà dichiarazioni spontanee prima che i giudici entrino in camera di consiglio? Lui continua a ripetere di sì. Lo ha prospettato più volte in passato nei corridoi del tribunale, lo ha ripetuto nei giorni scorsi agli ospiti delle sue cene romane, ma la decisione finale ora passa attraverso le riunioni con i suoi difensori, che nell'ultima udienza in calendario termineranno le loro arringhe. Quei $600.000 erano dell'armatore Diego Attanasio, cliente di Mills, è la versione di Berlusconi. Saremo a vedere se l'ex premier, che non si è mai fatto interrogare, alla fine deciderà di metterla a verbale questa versione anche in aula. In ogni caso il processo Mills è ormai al capolinea. Qualunque sarà il verdetto dei giudici, infatti, è la prescrizione, con tutte le contese sul giorno esatto della scadenza, a sancire la fine del processo e contemporaneamente spalancare le polemiche politiche. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. La Corte Costituzionale ha detto sì al segreto di Stato opposto dall'ex capo del SISMI Nicolò Pollari e dall'ex funzionario del servizio Pio Pompa, confermando dal Presidente del Consiglio nell'ambito dell'inchiesta sul presunto archivio riservato di Via Nazionale a Roma. si erano infiltrate nell'appalto per i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della statale 106 nel tratto compreso tra Reggio Calabria e Melito Porto Salvo, imponendo la fornitura di beni e servizi. Questa mattina le cosche Ficara Latella di Reggio e Iamonte di Melito sono state colpite da un'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Reggio, chiamata Affari di Famiglia, che ha portato al fermo di 5 presunti affiliati. Inizieranno domani le procedure di acquisizione delle armi utilizzate dai militari italiani a bordo della Enrica Lexia. Il console generale a Mumbai, Gianpaolo Cutillo, è stato ricevuto dal commissario di polizia che guida le indagini, al quale ha spiegato che il principio acquisito della condivisione della perizia balistica implica la presenza di 2 esperti dei carabinieri italiani. La richiesta è stata accettata. In corso le operazioni di flangiatura e pompaggio sui rimanenti 9 serbatoi della Costa Concordia naufragata davanti al porto di Isola del Giglio. Ad oggi è stato pompato circa il 67% del carburante presente nei primi 6 serbatoi della parte di prua della Concordia, per un totale di 1.308 metri cubi. Atteso per questo pomeriggio sull'isola l'arrivo del commissario Franco Gabrielli. Risarcimenti milionari per i familiari di operai morti per mesotelioma dopo aver respirato amianto negli stabilimenti milanesi della Pirelli. È quanto è stato offerto ieri dalla stessa Pirelli nell'udienza del processo a 11 ex dirigenti imputati per omicidio colposo e lesioni colpose in relazione a una ventina di decessi. 6 famiglie hanno già accettato. La Pirelli cerca di comprarsi la licenza di uccidere l'impunità, così il Comitato per la Difesa della Salute nei luoghi di lavoro e del territorio. Al microfono di Katia Caramelli, il presidente Michele Michelino. Noi siamo molto critici su questa trattativa. Noi capiamo che i familiari, chi ha avuto un danno, chi ha problemi economici a tirare avanti perché ha avuto un congiunto che è morto, magari da pagare il mutuo, ai figli da mandare a scuola, possa anche arrivare a accettare un risarcimento. Secondo noi però non è corretto che lo facciano le istituzioni, perché sembra che anche le istituzioni, anche l'INAIL, anche l'ASL, sembra che anche loro stiano entrando nella trattativa, e noi riteniamo che questo sia inaccettabile, perché le istituzioni dovrebbero comunque sia tutelare la salute pubblica e non possono semplicemente accettare un indennizzo, perché questo vorrebbe dire di fatto che allora uno si compra, chi ha i soldi si compra la licenza di uccidere, e di fatto anche l'impunità. Vogliamo che chi è responsabile della salute, ha fatto perdere migliaia di vite, la salute a tante persone, vogliamo che paghi. E poi c'è anche un problema più grave, per quello che noi vogliamo stare nel processo, lo vogliamo dire a tutti. Qui c'è un problema che riguarda poi anche le bonifiche su queste aree. Si è costruito, come il caso anche della Pirelli, si è costruito, ma non è che l'area è stata bonificata, perché non basta togliere 10-15 centimetri di terreno, perché le sostanze cancerogene, l'amianto, il cromo e tutte le sostanze cancerogene vanno in profondità. Adesso ascoltiamo il nostro racconto sul divorzio breve dopo la decisione del Parlamento. Un anno e dirsi addio. Se ci si era già lasciati, del resto, se l'amore era scivolato via, a cosa potrà mai servire fare passare più tempo con la speranza di cambiare idea? Difficile dopo una separazione che vi possano essere ripensamenti, lo dicono anche i numeri. Con questo spirito si provava da quasi un decennio, anche in Italia, ad abbreviare i tempi per ottenere il divorzio dopo la separazione. Così come avviene in gran parte dell'Europa, in alcuni paesi come Gran Bretagna e Spagna si parla addirittura di una manciata di mesi per svincolarsi da un'unione non più desiderata. E adesso anche nel nostro paese il lasso di tempo per un addio definitivo si accorcia. La Commissione Giustizia della Camera ha infatti dato il via libera alla proposta di legge sul divorzio breve, che ora passerà al vaglio del Parlamento. Un testo che riceve sostanzialmente un consenso bipartisan, segno che i tempi sono culturalmente maturi, e che prevede che tra la separazione e l'ottenimento del divorzio debba passare un anno e quindi non più 3. Un anno che diventerebbe 2 in presenza di figli minori. Le relazioni tra gli individui, come un po' in tutto l'Occidente postmoderno, hanno del resto subito un cambiamento antropologico. Per qualcuno è colpa dei valori smarriti, ma forse più pragmaticamente si è acquisita nel tempo una maggiore consapevolezza di sé, della propria libertà di decisione, del vivere la vita che corre sempre più veloce per quel che si può come una scelta e non come un destino, cosa che non preserva comunque dalla sofferenza. I dati Istat in ogni caso lasciano pochi dubbi. Da quella battaglia piena di ardore per il referendum sul divorzio che divise l'Italia nel 1974, le separazioni sono in costante aumento, un matrimonio su 4 fallisce, ci si lascia in media dopo 18 anni dalle nozze e sempre più spesso anche in tarda età. L'amore, si sa, è eterno sinché dura. L'importante è crederci ogni volta, sperando che sia quella giusta. Roberta Giordano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il datore di lavoro, quando in gioco c'è l'immagine della sua impresa e il patrimonio aziendale, può controllare la posta elettronica dei dipendenti. Lo ha deciso la Corte di Cassazione. Nella normale attività lavorativa, l'azienda non può controllare gli accessi ad internet del lavoratore e nemmeno i messaggi di posta elettronica. Ma questa tutela non sempre è valida, in base ad una sentenza della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di un ex dirigente di banca licenziato in tronco nel 2004 per avere divulgato via email notizie riservate, traendone anche un vantaggio personale. Il controllo ex post messo in atto dall'azienda sulla casella di posta elettronica è giustificato in questo caso, secondo la Corte, perché il lavoratore è venuto meno agli obblighi fondamentali di fedeltà e riservatezza. Non solo, ma per il lavoratore infedele scoperto attraverso questi controlli è legittimo il licenziamento. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si va verso il processo di beatificazione di Don Giussani, il fondatore di Comunione e Liberazione. Era il 1969 quando Don Giussani, prete brianzolo, diede vita a Comunione e Liberazione. Il suo messaggio trascinò intere generazioni, a cui Don Gius spiegava che il cristianesimo non è illusione e che i cristiani, pur non essendo del mondo, vivono nel mondo e dunque devono sporcarsi le mani. Un messaggio che negli anni ha trovato diverse attualizzazioni. Spesso membri di CL sono scesi in politica e spesso hanno avuto legami con centri di potere, grazie anche alla successiva nascita del braccio economico rappresentato dalla Compagnia delle Opere, che in Lombardia soprattutto è un vero e proprio impero. È per questo che, come fu per il fondatore dell'Opus Dei, Escrivade Balaguer, anche l'avvio della causa di beatificazione per il fondatore di Comunione e Liberazione è avvolta dalle polemiche sollevate da parte di chi non scinde la figura del fondatore da quella che poi è stata la possibile evoluzione del movimento da lui creato. Amico personale e seguace di Don Gius fu l'attuale arcivescovo di Milano, Angelo Scola, a cui è toccato avviare l'iter, e tuttavia proprio Scola di recente aveva preso le distanze dal movimento e dai suoi rappresentanti, e così durante la cerimonia in Duomo Scola, che pur ha ricordato il carisma universalmente riconosciuto a Don Giussani, ha invitato il movimento a praticare una profonda comunione con tutta la Chiesa. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adriano Celentano è tornato in televisione con un'intervista a Servizio Pubblico, replica le critiche della RAI e poi attacca: il cambiamento è nell'aria, alle elezioni prevedo sorprese. Qualcosa mi dice che c'è un cambiamento nell'aria e che il vento di questo cambiamento sta diventando una tempesta. Cosa significa? Ma che per esempio alle prossime elezioni ci potrebbero essere grosse sorprese. La gente sta cominciando a capire che non si va da nessuna parte se non prendiamo con forza e determinazione la via dell'onestà. E questo non vale soltanto per i politici, ma per tutti i ceti. Tom e Jerry e anche gli altri cartoni animati della Warner Bros. Al Museo Nazionale del Cinema di Torino sino al 27 di maggio, dove è allestita una mostra dedicata proprio ai protagonisti di questi cartoni animati. Il direttore del museo, Alberto Barbera, al microfono di Adriana Fracchia. I cartoni animati della Warner sono tra le cose più esilaranti che siano mai state realizzate. Sono cartoni animati straordinari che hanno, credo, segnato la giovinezza e l'adolescenza di intere generazioni, e continuano a farlo perché vengono ancora trasmessi oggi sulle televisioni di tutto il mondo con grandissimo successo. La mostra è fatta di materiali preziosissimi e rarissimi, perché sono disegni originali, schizzi, studi preparatori oppure acetati che vengono utilizzati per realizzare i cartoni, che Steve Schneider, questo collezionista appassionato di cartoni animati, ha raccolto nel corso degli anni, e questa è veramente un'occasione unica. È la possibilità di fare il confronto, per esempio, tra gli studi preparatori di personaggi che nel corso del tempo sono evoluti e sono cambiati. Per esempio la prima versione di Speedy Gonzales della fine degli anni 30 e poi lo Speedy Gonzales degli anni 50-60 che tutti conosciamo e ricordiamo. E sono due topolini quasi riconosciuti nell'evoluzione del disegno. Lo stesso per il gatto Silvestro, che cambia tantissimo dal primo gatto degli anni 30 al gatto che tutti conosciamo che insegue Titti negli anni 50 e 60. Questa mostra sbarca per la prima volta in Italia. Sì, è la prima volta che varca l'oceano e giunge in Europa e siamo ovviamente felici, in qualche modo anche orgogliosi di essere il primo museo europeo che ospita questa mostra, che poi immagino proseguirà per un tour in Europa altrettanto fortunato di quello che ha avuto negli Stati Uniti. Ed è tutto per questo GR che è stato curato da Daniele Biacchessi, in regia Paolo Corleone, al microfono Valentina Furlanetto. Il prossimo appuntamento alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.